Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Drago, è arrivato un telegramma del presidente Napolitano addirittura, che ci dice congratulazioni per essere arrivati alla 100ª puntata del programma Chiedo Asilo. Ma evviva, bisogna festeggiare, grazie. Bentornati per la 100ª volta a Chiedo Asilo. Un saluto da K. E un saluto da Drago. E un saluto anche dal presidente. Ma grazie presidente, è veramente un onore. Quindi, la 100ª volta che salutiamo. Sì. 100. Drago, mi senti? Sì, ecco. Quindi? Quindi bisogna festeggiare, 100ª volta. Come festeggiamo? Quali andiamo a casa. Ma subito. Come adesso? Chiudiamo, mettiamo una musica lunga. Puntata speciale uguale nessuna puntata per te. No, ma una musica non lunga. Si può, dai, non si può, non si può. Vabbè. Possiamo tirare fuori una bottiglia di champagne. Allora, Margherita Champagne, grazie. Margherita Champagne, cosa trovare dire? La bottiglia di champagne. C'è la bottiglietta d'acqua, se vuoi. L'unica cosa. Vabbè, dai, lascia perdere. Festeggiamo poi dopo, dai. No, se ho un'idea. Facciamo la puntata a colori. Come a colori? A colori. Sai, si faceva, no? Quando, non so, Tex, il gruppo TNT, arrivavi al numero 100, facevi a colori. O l'albo a colori. Però trasmettere radio a colori è un po' un casino. Cioè, un'operazione che necessita di tanta fantasia, innanzitutto, e poi di assunzione massiccia di acido lisergico, che non è tanto facile da reperire. Ma scusa, un po' di fantasia, un po' di poesia, Drago, dai. Per esempio, c'è il bambino Ken Ordine, che era un poeta, beat, speaker americano molto famoso. Ne aveva da vendere di fantasia. Adesso guarda, Drago, imposto la voce in modo da sembrare profondo e conturbante come Ken Ordine. E cosa fai? E ti faccio vedere, anzi, ti faccio sentire la radio a colori. Impossible to understand beige. Impossibile da capire il beige. Unless you stare at him hard. A meno che non lo fissiate attentamente. Stare him right in his whys. Lo fissiate dritto nei suoi perché. Unless you see beige. A meno che non lo vediate. In the serious beigeness. Nella beigitudine. Of being its beige self. Del suo stesso essere beige. More than anything, beige is careful. Il beige è prudente. Insanely so, really. Maniacale. Almost as careful. Quasi prudente. As that shade of yellow that's afraid. Come una impaurita sfumatura di giallo. But beige is much sneakier than yellow. Ma il beige è più circospetto del giallo. Wants the entire everything to be as safe as yesterday is. Lui vuole che tutto in assoluto sia sicuro come lo è in passato. Now that right now's here. Adesso che siamo nell'assoluto adesso. You know how flamboyant red can be. Sapete quanto esibizionista è il rosso, no? Wouldn't last a minute with beige. Col beige non durerebbe un minuto. Probably wouldn't get past his secretary, Miss Always Light Tan. Non riuscirebbe nemmeno a parlare con la sua segretaria, la signorina sempre abbronzatina. Beige even thinks that orange is a little too far out. Il beige pensa perfino che l'arancione faccia un po' troppo l'originale. The way it streaks sunrise and set. Quando vena il cielo all'alba e al tramonto. And just the mention of green and beige sees purple, which also drives him into a rage. E al solo nominargli il verde, il beige vede rosso dalla rabbia, ma anche il rosso lo fa infuriare. Of course it's only a beige rage. Ma è solo una furia beige. Not much strength to it. Niente di che. To be honest as Lily White, the truth is that beige is anti-color. Ad essere candidi come il bianco dei cigli, la verità è che il beige è un nemico dei colori. Unless the color is right. A meno che non si tratti del colore giusto. Unless the color is beige. A meno che non si tratti del beige. About as average as you can get away with seeing. La cosa più neutra in cui tu possa sbarrire la vista. Is the gray way beige. È il modo grigio in cui il beige. Likes to have things being. Vuole che le cose succedano. E ora, bambini! creazione. Ricreazione, sì, capito? Ricreazione. Cioè un'altra creazione. Ma cosa? Come cosa? Drago, ogni volta che suona la campanella è come se l'universo si ricreasse di nuovo. È una rinascita. Ma ti sembra parlare di rinascita con sto freddo a gennaio, il mese più freddo brutto? Freddo rigenera. Non vedi che la natura ha chiuso i battenti, fino a marzo rimane in letargo. La ricreazione, vedi, dai, sì, vedila allora, per quello che è. È giusto quei 5 minuti di tempo per fumarsi una sigaretta. E la sigaretta non è che ti fa rinascere, anzi. Vabbè, non la fumo, Comunque tu, umore nero sì. su tutti i fronti. Sì, e per migliorare il livello dell'umore, ecco giusto il bambino Albertino. Ciao. Migliorare il livello di cosa? Ma no, niente, parlavamo di buon umore, quindi... No, per carità, oggi non sono quella giusta. Ah, vabbè, perché di solito invece sì, buon tempone, allegrissimo. No, ma oggi ho messo di malumore tutta la classe. Addirittura. Cosa hai fatto? Però non l'ho fatto apposta, Sì, ma cosa hai combinato? Io non volevo, ma alla fine erano tutti col magone. Sì, spiega. Cosa hai fatto? Allora, vi spiego dall'inizio... Se non mi confondo. Sì. Allora, nell'ora di musica, la maestra Poppona ci ha fatto cantare. Sì. Evviva. E allora ha chiesto a tutti noi bambini se conoscevamo qualche canzone. Mm. Ovviamente tutti ne conoscevano una, no? Cioè, tipo Anna dei capelli rossi, quel mazzolino di fiori. Heidi. Come Heidi? Ma siamo ancora quelle canzoni lì? Vabbè, per forza, i genitori dei bambini sono di quella generazione lì, UFO robot, Furie, eccetera. Insomma, strapotere della TV anche per queste solito. Cose. Invece, i bambini stranieri avevano le loro filastrocche, nelle loro lingue, no? Rumeno, marocchino, cinese. Bello, sì. Insomma, è stato divertente. Fino a un certo punto è andato tutto bene. Sì. Fino a che non è toccato a me dire che canzone volevo cantare. No, aspetta che adesso cerchiamo di indovinare, perché allora... Sarà quella dei Pink Floyd che canta sempre, no? Another Brick in the Wall. Ah, beh, sarà lui. No, quella è in inglese. Ah. Quindi ne ho scelto un'altra. Era una canzone che i miei genitori usavano come ninna nanna quando io ero in culla. Allora ci sono, Buonanotte Fiorellino di De Gregori. Magari! Come no? Per i miei genitori, De Gregori era uno da internare in un campo di rieducazione fin dal 76, dopo il processo al Palalido. Ma perché adesso? Ma cosa? Ma perché? Domandatevelo un po', perché era un cantautore disimpegnato, no? Certo. Cantava storie d'amore e in più guadagnava un sacco di soldi. Ecco. Quindi no, niente De Gregori. Vabbè, e allora che cosa gli hai cantato? A me è venuto spontaneo Morti di Reggio Emilia. Così la maestra, che non la conosceva, ha detto subito: bene, bene, bambini, sentite questa canzone nuova che non conosco neanche io. I morti di Reggio Emilia. Un po' pesante, E infatti alla fine frignavano tutti, Un magone che si era creato un'atmosfera di terrore. Vabbè, ci credo. Di terrore. Sì, poi la direzione ha dovuto affittare immediatamente un clown giusto per tirare un po' su la situazione. Vabbè, ma che canzone sei andato a scegliere? Ce ne sono tante, dai. Allora, cosa ci posso fare io se i miei genitori mi hanno levato a pane e comunismo? Ma no, ma io non ci credo che non conoscevi una canzone per bambini, Bambino Bertoli. L'hai fatto apposta, tu volevi provocare. Che poi non sai nemmeno di che cosa parla Morti di Reggio Emilia, sono sicuro. No, parla di morti a Reggio Emilia. Vabbè, ho capito, ma quando, perché? Una canzone che racconta una storia vera, la sai. Ma che ne so io? Appunto. Io la so memoria come il Padre Nostro. So quella, so Contessa. Ma Contessa qua, dei Decibel? Ma no, Contessa di Paolo Petrangeli. Bandiera Rossa, l'Inno dei Lavoratori, l'Internazionale. Mario Capanna sarebbe fiero di te, Bambino Albertuccia. Capanna chi? Vabbè, ma lascia stare. No, ma perché sono i soliti riferimenti che se va bene li capiscono in 10. Vabbè, dai, Mario Capanna, per quelli di una certa età è qualcuno. Infatti, dai. Non volevo sprecare l'occasione. Okay. Però adesso, scusa, sfruttiamo l'occasione e facciamolo cantare. No, Bambino Io sono sempre pronto. Sì, però va bene, l'importante è non cantare Morti di Reggio Emilia, vi prego. No, ma come no? Dai, ma scusa, ma io voglio sentire quella, facci piangere, dai, Bambino Alberto. Ma stavolta non è meglio, non so, Romagna Mia? Ma che Romagna? Ma no, sì, dai, Emilia! Romagna, l'Emilia più o meno, ma dai. No, dai, dai, Alberto. Vabbè, tu insisti, però poi non venirmi a dire niente quando ti viene il magone, No, dai, tu, tranquillo, vai. Vabbè. Questa è Per i Morti di Reggio Emilia, di Fausto Amodei. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi Bandiera Rossa. Cos'è? Basta, dai. Ma ti commuove? No, mi fa venire da piangere perché sono tutti morti. Per i morti? Sì. Ma le note mi fanno piangere. Vabbè, dai, io te l'avevo detto che faccio venire il magone. Era meglio la Romagna delle Emilia. Tutti più buoni. di buttarci nella nostra lista dei tananananì, sì, per che ci sono arrivati, ringraziamo, salutiamo i bambini Alberto Caserini e Daniel Plenz. E poi la bambina Margherita Ina. E grazie anche al bambino Carmelo Lauricella, che funziona anche come nananananana, ma non di oggi, perché oggi è torniamo lunedì e quindi dovrebbe essere che fa, tipo non so, ho visto un colibrì. E mandate i vostri ho visto un colibrì alternativi a chiedosilo@radio24.it.